Italia in controluce. È il pomeriggio di Radio 24, quella che state ascoltando è Italia in controluce, il programma di Radio 24 dedicato alle inchieste e reportage. Quarta tappa del viaggio di Italia in controluce verso le prossime amministrative 2012. La puntata odierna è girata a Genova. Il capoluogo ligure va al voto, dunque nei mesi successivi alla terribile alluvione che ha messo in ginocchio la città, i suoi gangli vitali, i comparti economici e produttivi e causato morti e feriti. Sul piano politico Genova è una città dove da sempre ha governato la sinistra, Partito Comunista, PDS, DS e ora Partito Democratico. Ma il PD è stato recentemente sconfitto dal candidato di SEL e ora cerca una rivincita, almeno dal punto di vista del voto sul simbolo. Il racconto sul voto a Genova nel reportage di Cristina Carpinelli. Ma quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova. E ogni volta ci chiediamo se quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. Sento come primo dovere la necessità di rimetterci in piedi e alzare la testa e di resistere. Ma intanto tutto ciò che è stato fatto, le scelte, i comportamenti, le decisioni, tutte le carte che sono state scritte, tutto questo viene da me da oggi messo a disposizione della magistratura perché si faccia presto nell'accertamento di tutte le responsabilità. Io credo anche di dover accettare le manifestazioni di rabbia, fa parte dei miei doveri. Il sindaco serve anche a questo, a raccogliere lo sfogo, la disperazione di chi ha perduto tutto, di chi ha avuto paura per sé o per gli altri e vuole gridarlo. Diceva così il 10 novembre in consiglio comunale a Genova Marta Vincenzi, il sindaco della città devastata dall'alluvione. Evidentemente i genovesi tutta quella pagina non l'hanno dimenticata e alle primarie del PD sono andati a votare in 25.000, quasi 11.000 hanno scelto il candidato Marco Doria. Il sindaco Vincenzi ha preso 6.000 preferenze. A casa Doria ci si aspettava la vittoria, anche con qualche legittima preoccupazione, racconta così la moglie. Vabbè, insomma, diciamo che lasciamo che l'attenzione sia concentrata su di lui, quindi non esprimiamo nessun tipo di... Insomma, certo, naturalmente partecipazione e anche preoccupazione per l'impegno che adesso lo aspetta per le elezioni amministrative, però insomma cerchiamo di tenerlo il più possibile sereno. Il peso della responsabilità lo sente lo stesso Marco Doria che in una fugace intervista ci racconta così. Mi sento carico di responsabilità. Ma lei su cosa ha puntato quando ha fatto la campagna? Quello su cui ho puntato è stato il dare dell'impegno politico un'immagine di servizio alla comunità. Se dovesse essere sindaco, quali sono le cose che lei vorrebbe risolvere? Ce ne sono tantissime che vorrei risolvere. Ce ne sono tantissime. È inutile fare l'elenco, sarebbe un elenco lungo. Si va dunque a elezioni con un candidato, Marco Doria, non sostenuto dal PD, ma dall'area vendoliana, un po' quello che era accaduto a Milano con Giuliano Pisapia. Eppure, quando si chiede ai rappresentanti del SEL se a giocare un ruolo importante in questa vittoria sia stato anche il modo in cui Marta Vincenzi ha gestito l'alluvione, ci rispondono che no, non è quello. A portare gli elettori a votare Marco Doria è stato semplicemente un bisogno. Ci racconta così Valerio Bordini, coordinatore provinciale del SEL a Genova. Genova, Milano, ma anche Cagliari, insomma tutte queste realtà esprimono una voglia di cambiamento che sicuramente c'è a Genova, sicuramente c'è a Milano, sicuramente c'è a Cagliari, ma che oggi è una volontà di cambiamento che c'è nel paese e questo io credo che sia il primo dato. E quello che io ti posso dire è che io credo che quello che ha veramente pagato in questa campagna delle primarie è da un lato la figura di Marco e il profilo, come dire, e è passato l'impegno che Marco ci aveva preso di dire: io adesso voglio impegnarmi per Genova, per cui guardate che questa cosa non sarà in nessun modo un trampolino per altro. Se non divento sindaco, se non entro nel consiglio comunale, io non vorrò andare a fare il parlamentare, l'europarlamentare, non è il mio percorso oggi è con questa città. e poi perché questa città ha visto e ha fatto un percorso con Marco, che l'ha girata in lungo, in largo, in autobus o in treno, tra l'altro, e questo è un altro fattore che, per esempio, in una città come Genova, che ha oggi grosse criticità sul trasporto pubblico, pensiamo alla situazione di AMT, che è in una crisi perenne, sono piccole differenze che messe insieme sono molto grandi, come dire. E poi davvero, quando Marco parlava di ascolto e partecipazione, la città ha visto di venire ascoltata, e l'appello che Marco ha lanciato da subito di dire: questa campagna per le primarie non è la mia ma è la vostra, venite, prendetevela, ditemi cosa c'è bisogno di fare, costruiamo insieme la città che vorremmo per noi, insieme a l'elemento, insomma, molto ripreso anche del pragmatismo di Marco, che da subito ha detto: non mi si chieda se abbasserò le tariffe, oggi le tariffe non si possono abbassare, come dire. E questo penso che sia l'elemento, come dire, quando qualche giorno fa, venerdì, abbiamo visto che in un flash mob che abbiamo organizzato per concludere la campagna, abbiamo visto davanti al Palazzo del Municipio 250 persone, abbiamo alzato la testa e abbiamo detto: ci sono, l'hanno fatta loro per davvero e ci sono, quindi è andata. Il PDL intanto sta a guardare e lavora per creare un'alleanza forte con la Lega, come ci racconta il coordinatore del partito Gianni Barci, che, incalzato sui problemi di Genova, ci risponde così. Innanzitutto lo sviluppo della città nella sua parte industriale, che ormai è in grave decadenza e non dà occupazione ai giovani. La Gronda, che è un fatto importante, la Gronda di Ponente, ma bisogna unire poi successivamente quella di Levante. L'avanzamento del porto verso il mare, la difesa della cantieristica in questo momento, che diventa un elemento essenziale per lo sviluppo anche della città, e il problema della sicurezza, che è veramente un problema drammatico. Voi avete un candidato sul quale state lavorando, cioè un'idea di candidato, o siete ancora in alto mare, diciamo? Noi non siamo in alto mare, stiamo lavorando per un candidato, aspettavamo le primarie del centro-sinistra per capire qual era l'interlocutore che avevamo di fronte. Oggi sappiamo che è il professor Doria, e quindi questo ci permette di fare una candidatura forte, alternativa a Doria e agli altri candidati che ci saranno. Avrete con voi la Lega? Correrete insieme alla Lega? Il mio auspicio è sì, perché questo ci permetterebbe di andare sicuramente al ballottaggio. Lei è una persona che su Genova, sul territorio, c'è, è stata presente storicamente, ma c'è ancora. Lei se la sentiva un po' che alle primarie la Vincenzi non avrebbe vinto? No, veramente, le dico la verità, non pensavo a questa esplosione di Doria, assolutamente. Pensavo che ci fosse un testa a testa fra la Pinotti e la Vincenzi, e pensavo che vincesse la Vincenzi. Cosa che mi ha lasciato sorpreso, non, interdetto addirittura, perché non me l'aspettavo proprio, con quel risultato oltretutto. Secondo lei però che cosa può aver inciso in maniera così netta sulla sconfitta della Vincenzi? Il tema dell'alluvione? Ma io non credo che sia il tema dell'alluvione, è tutta una gestione, è vent'anni di gestione della sinistra a Genova, che piange sempre, chiede soldi al governo e non fa mai dei progetti di sviluppo della città. Avete ascoltato il reportage di Cristina Carpinelli sulle amministrative 2012 e sul voto a Genova. Torniamo domani alle 6:30 con l'ultima puntata di questo viaggio dedicato a Parma.